Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Perché nella nostra epoca è diventato così difficile essere gentili? È la domanda alla quale cercano di rispondere lo storico Adam Phillips e la psicanalista Barbara Taylor nel saggio Elogio della gentilezza. Per vivere bene, dobbiamo riuscire a identificarci con le altre persone attraverso l'immaginazione e permettere loro di identificarsi con noi. L'egoismo implica una mancanza di immaginazione così acuta da essere una minaccia non tanto per la nostra felicità, quanto per la nostra sanità mentale. Prendersi cura degli altri, come sosteneva Rousseau, è ciò che ci rende pienamente umani. Dipendiamo gli uni dagli altri non tanto per la nostra sopravvivenza, quanto per il nostro essere vero e proprio. Il sé, privato delle sue forme di attaccamento simpatetico, o è finzione o è follia. La società moderna occidentale fa resistenza di fronte a questa verità fondamentale e mette l'indipendenza sopra ogni altra cosa. L'aver bisogno degli altri viene percepito come una debolezza. Solo ai bambini, ai malati e alle persone molto anziane è permessa la dipendenza. Per tutti gli altri, le virtù cardinali sono autosufficienza e autonomia. La dipendenza viene svalutata anche nei rapporti intimi, quasi che fosse incompatibile con la fiducia in se stessi, quando è invece l'unica cosa che la rende possibile. Si pensa che per l'amante o lo sposo ideale, il dare o il prendere amore sarebbero solo opzioni fra cui scegliere con grande disinvoltura. L'aver bisogno degli altri, anche in questo scenario di desideri e di richieste così forti, è alla fin fine qualcosa da biasimare. Ma tutti noi siamo creature dipendenti fino al midollo. E lo si è sempre saputo per gran parte della storia occidentale. Anche gli stoici, che erano gli alfieri della fiducia in se stessi, ammettevano nell'uomo il bisogno innato delle altre persone, come portatrici e destinatarie di gentilezza. L'individualismo è un fenomeno molto recente. Il grande paradosso del capitalismo moderno è che esso mina proprio quelle istituzioni sociali su cui una volta poggiava: famiglia, carriera, comunità. Nella Gran Bretagna odierna, un matrimonio su due finisce con un divorzio e un bambino su quattro viene allevato da un solo genitore, quasi sempre la madre. Le comunità che si fondavano su relazioni familiari e lavorative stabili sono crollate sotto la spinta di questi cambiamenti. Per un numero crescente di cittadini britannici e americani, la cultura d'impresa significa una vita di superlavoro, ansia e isolamento. La competizione regna sovrana. Anche i bambini piccoli vengono forzati a competere tra loro, con il risultato di ammalarsi per questo. Una società competitiva che divide le persone in vincenti e perdenti produce comportamenti egoisti. Gli esseri umani, come abbiamo detto più volte, sono creature ambivalenti. La generosità ci viene spontanea, ma anche la crudeltà e l'aggressività. Chi viene sottoposto a una pressione incessante si estranea dagli altri. Come il bambino che ha subito azioni di bullismo diventa a sua volta un bullo, così gli individui che sono stati repressi dalle vicende della loro vita diventano a loro volta dei repressori. Il patto di simpatia con gli altri, che si fonda sull'apertura del nostro cuore, comincia a essere in pericolo. La paranoia prospera quando gli individui cercano dei capri espiatori per la loro infelicità. Andare in cerca di capri espiatori è un autoinganno, perché comporta il sacrificio della nostra generosità. Ma questo è il prezzo che molti pagano quando gli obblighi tribali, che si manifestano talvolta in forme perverse, prendono il posto di vincoli comunitari più ampi. Cresce la cultura della durezza e del cinismo, alimentata da un'empia ammirazione per quelli che sembrano trionfare, i ricchi e famosi, la casta dei tempi moderni, in un habitat dove mors tua, vita mea. Alcune forme di gentilezza sembrano sopravvivere. Come si diceva sopra, specie il ruolo di genitore, viene oggi considerato quasi da tutti come un'isola di amorevolezza in un mare di crudeltà. Ma la celebrazione continua dell'amorevolezza genitoriale può creare molta confusione. Chi ha bisogno di essere determinato e intraprendente sul posto di lavoro, ci si aspetta che a casa disattivi questi comportamenti. Tutto ciò può essere difficile per gli uomini, ma per le donne la cosa pone problemi del tutto particolari, specie per quelle che, dopo aver abbandonato la vecchia ideologia del sacrificio femminile ed essersi convertite al tipico sgomitare del mondo del lavoro, si ritrovano poi ad accudire i figli a tempo pieno. Il ritornello dei commenti angosciati delle neomamme che leggiamo sulla stampa dà la misura di quanto il salto possa essere sconcertante, quando a compierlo sono donne cresciute nella cultura del «io vengo prima di tutto», che scoprono improvvisamente i piaceri, ma anche i dolori, del mettere gli altri al primo posto. Questa confusione femminile si riverbera nel resto della società, visto che le donne continuano a trovare impiego nelle caring professions, in cui essi, a dispetto dei manager ossessionati dal budget, non esitano a dispensare solidarietà in cambio di magri compensi e di scarso riconoscimento. Nel passato l'associazione tra donne e gentilezza era fonte di un qualche prestigio, ora invece è il segno di una perdita di potere. La gentilezza potrà anche essere ammirevole, ma è roba da sempliciotti. Che fare allora? Niente, diranno in molti. Gli esseri umani sono per natura egoisti, e questo è un fatto. Dobbiamo vivere assumendocene le conseguenze. Ovviamente dire alle persone di essere generose non equivale certo ad attivarle realmente, anche se è possibile far toccare con mano i piaceri della generosità e la sofferenza che accompagna il volersene privare. La generosità può essere un piacere a cui si rinuncia con metodo, e la capacità o l'istinto della generosità possono essere attivamente e inconsciamente sabotati da quella parte di noi che teme l'intimità e che peraltro la alimenta. La gentilezza, si potrebbe dire, complica le nostre relazioni con gli altri con modalità particolarmente sottili e gratificanti. E tutto questo per una ragione molto semplice. I gesti gentili dimostrano in maniera lampante che siamo animali vulnerabili e dipendenti, la cui risorsa migliore risiede in quello che possiamo essere gli uni per gli altri. Se in passato la generosità ha dovuto trovare la sua legittimazione in Dio o negli dèi, se ha dovuto essere collocata nelle donne o nei bambini, ciò è dipeso dal fatto che andava delegata. E andava delegata e sanzionata, sacralizzata, idealizzata e sentimentalizzata perché essa proviene da quella parte di noi che ci turba maggiormente, da quella parte che sa bene quante assicurazioni ed effettive rassicurazioni occorrono per darci la misura della sua praticabilità. La nostra resistenza alla gentilezza è la resistenza a incontrarci con ciò che essa incontra dentro di noi e con ciò che incontriamo negli altri quando siamo buoni con loro. Ed è anche, ovviamente, la resistenza a vedere i limiti di quello che la generosità può fare per noi. È per questo che i piaceri della gentilezza d'animo celebrati in questo libro non potranno mai essere i piaceri della superiorità morale o della beneficenza dall'alto o del trucco protettivo dei buoni sentimenti. Né i gesti gentili vanno visti come atti della volontà, come sforzi o come soluzioni morali. La gentilezza proviene da ciò che Freud chiamava, anche se in un contesto diverso, rieducazione, cioè dalla riacquisita consapevolezza di qualcosa che era già stato sentito e conosciuto. E questa rieducazione, di cui forse anche questo libro è una parte, prevede il riconoscimento della gentilezza come di una tentazione quotidiana a cui facciamo resistenza, che non è la tentazione di sacrificare noi stessi, ma di includere noi stessi tra gli altri. Non la tentazione di rinunciare ai nostri lati aggressivi o di ignorarli, ma di vedere la generosità come l'essere solidali con i bisogni umani, come un senso davvero paradossale di impotenza e di potere che è indotto da questi bisogni. I gesti di gentilezza ci coinvolgono in forme diverse di conversazione. La nostra resistenza a tali conversazioni ci suggerisce che potremmo essere maggiormente interessati a esse, che in realtà vorremmo da loro molto di più di quello che facciamo conoscere di noi. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Adam Phillips e Barbara Taylor, Elogio della gentilezza, Ponte alle Grazie Editore, 112 pagine, 12 euro.